il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Al quadrifoglio vogliamo parlare oggi di agricoltura e in particolare vogliamo parlare di consorzi agrari, questi enti diffusi nel territorio e forse poco conosciuti. Cerchiamo anche di capire un po' la storia con Federico Dianin, presidente del Consorzio Agrario del Nord-Est, il consorzio forse più grande d'Italia, nato un anno e mezzo fa dalla costituzione, dall'unificazione di alcuni consorzi del Nord-Est. Benvenuto intanto, dottor Federico. Buongiorno a voi. Ecco, ci può dire cosa sono i consorzi agrari? Allora, i consorzi agrari sono delle cooperative da un punto di vista giuridico e sono fondamentalmente degli strumenti a disposizione degli agricoltori per fare impresa. Cosa vuol dire? Che noi come consorzio agrario forniamo alle nostre imprese, ai nostri agricoltori associati e clienti, servizi e mezzi tecnici per poter fare agricoltura, per poter fare impresa. Quali sono i servizi che offriamo? Sono servizi legati allo stoccaggio dei cereali, legati ai contratti di coltivazione, legati alla garanzia del prezzo su alcune produzioni e sulla raccolta di alcune produzioni, la possibilità di gestire i prodotti soprattutto nel settore cerealicolo dei nostri associati e poi naturalmente tutti i mezzi tecnici che servono agli agricoltori per fare impresa, dai concimi, ai fitofarmaci, alla meccanizzazione, ai mangimi, a tutto ciò, ripeto, che le aziende agricole necessitano per poter fare il loro lavoro. Ma quando sono nati questi consorzi? Cos'è che ha spinto qualche decennio fa alla nascita di questi consorzi? I consorzi agrari sono nati a fine 800 e sono nati con lo stesso scopo per cui oggi continuano a esistere. Erano strumenti che dovevano aiutare gli agricoltori a crescere dal punto di vista tecnico, professionale, dal punto di vista delle coltivazioni stesse, quindi imparare a fare agricoltura in modo moderno. E poi si sono sviluppati negli anni successivi, nel ventennio sono stati dei grossi centri di stoccaggio e quindi di ammasso per soprattutto anche allora per le produzioni cerealicole. Non dimentichiamoci che erano gli anni in cui il regime raccoglieva e incentivava gli agricoltori a portare in questi grandi centri di ammasso le loro produzioni che poi servivano per sfamare la popolazione. Nel dopoguerra si sono naturalmente modernizzati, hanno iniziato un grande lavoro di innovazione sotto tutti i punti di vista, ma soprattutto dal punto di vista tecnico, e sono diventati il punto di riferimento per quanto riguarda tutte le attività di sviluppo, di innovazione tecnologica di cui le imprese avevano bisogno. Ecco, oggi c'è una rinascita forse dei consorzi dopo qualche anno in cui se ne parlava di meno, però si è sentita la necessità nel Nord-Est di mettersi assieme, di unire più consorzi, tanto che si parla adesso del consorzio agrario del Nord-Est come del più esteso d'Italia. Intanto quando è nato e perché questo passaggio? E vi dirò che da un certo punto dai primi anni 90 in poi, da quando poi la Federconsorzi non è più esistita, da quando si è chiusa per tutta una serie di ragioni la Federconsorzi, i consorzi agrari provinciali si sono riorganizzati su base provinciale e quindi sono nati una serie e sono cresciuti una serie di consorzi a livello provinciale o interprovinciale, quindi più province. Ne sono rimasti in Italia da una settantina circa, ne sono rimasti una trentina perché c'è stato tutto un lavoro di aggregazione e di fusione fra consorzi. È evidente che in tempi moderni pensare a piccole strutture provinciali, magari con fatturati bassi, quindi con grandi costi di gestione, era improponibile. Tanto si dà che gli ultimi anni hanno favorito tutta una serie di aggregazioni a livello nazionale. Per quanto riguarda poi il discorso del nord-est, noi siamo il risultato dell'aggregazione, della fusione fra il consorzio agrario di Padova e Venezia, che aveva negli ultimi anni anche acquisito il Polesine, quindi quello che restava del consorzio agrario di Rovigo, con il Lombardo-Veneto, quindi con il consorzio agrario di Verona-Vicenza, Brescia e Mantova. Oggi siamo presenti su 7 province, di cui 5 venete e 2 lombarde, come vi dicevo. E perché questo? Per la stessa ragione che vi dicevo prima, e cioè la necessità di fare sistema, la necessità di ridurre i costi di gestione, i magazzini, la logistica. Oggi fare impresa in modo moderno vuol dire ottimizzare tutta una serie di opportunità, dai costi al personale, a tutta una serie di cose, tant'è vero che dopo un anno e mezzo di vita e di lavoro di questo consorzio stiamo constatando dei risparmi notevoli, delle notevoli riduzioni di costi che poi vanno a beneficio dell'innovazione, vanno a beneficio degli investimenti e delle imprese con cui lavoriamo, certo. Ovviamente. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. Anna che sorride a tutti, Anna in fondo come sta? Anche se si trucca gli occhi, si capisce che non va. Anna e le sue insicurezze, gli entusiasmi artificiali, Anna con i suoi animali, ultimi esemplari di sincerità. Anna ha sempre un libro in borsa, Anna spende più di quel che ha, e sul frigo mette quelle foto di posti dove non andrà. Anna che cucina dolci per le feste degli amici, Anna che si chiude in bagno quando a cena parlano di libertà. Bisogno di essere amata per quello che ancora non è, e regala se stessa nella speranza che qualcuno poi la convincerà. Anna come a 18 anni, Anna e figli che non ha, Anna con i suoi vestiti colorati, grandi molto più di lei. Anche se si trucca gli occhi, si capisce che non va. Anna e le sue insicurezze, gli entusiasmi artificiali, Anna con i suoi animali, ultimi esemplari di sincerità. Anna che domanda agli altri tutto quello che non sa. Thank you. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando dei consorzi agrari, in particolar modo con Federico Dianin, presidente del Consorzio Agrario del Nord-Est, un consorzio che abbiamo visto va dal Veneto, dal Trevigiano, fino alla zona lombarda di Brescia e anche più in là. I prodotti che vengono acquisiti dagli agricoltori, parlavamo prima di riduzioni anche di prezzi, della necessità di fare sistema, l'agricoltura dove si sta orientando oggi? Cioè vedete che c'è magari una riduzione nell'utilizzo di certi prodotti, fitofarmaci o altro rispetto ad altro, magari perché vi sono innovazioni tecnologiche che portano a ottimizzare la coltivazione? Sì, quando parliamo di agricoltura oggi pensiamo a un ambiente che ha a cuore in modo molto importante anche la salvaguardia e la tutela del territorio, quindi una serie di innovazioni, di tecniche, di tecnologie stesse, quindi di prodotti a basso impatto ambientale, quindi le imprese agricole hanno ridotto l'uso di fertilizzanti piuttosto che di diserbanti, di fitofarmaci in genere. E quindi questo è il primo passaggio verso una reale innovazione dal punto di vista tecnologico. Questo aiuta anche la riduzione dei costi per le imprese. C'è però da parte delle imprese un'altra necessità, oltre alla riduzione dei costi ovviamente, che è quella di poter collocare il proprio prodotto. Il prodotto dei nostri soci, delle nostre imprese, è collocato sul mercato o attraverso i canali normali, quindi i commercianti, la grande distribuzione, eccetera, oppure attraverso il consorzio agrario, nel caso soprattutto dei cereali, perché è il settore più importante per il territorio dove siamo noi, quindi penso ai cereali dal grano al mais, abbiamo poi le proteoleaginose, la soia, eccetera, quindi una serie di produzioni estensive che mettono le imprese nella condizione oggi di non essere dei protagonisti sul mercato. Quindi per essere protagonisti bisogna aggregare il prodotto, bisogna averne tanto. Noi come consorzio agrario raccogliamo oltre 4 milioni di quintali di cereali dei nostri associati. È chiaro che in questo garantiamo anche agli agricoltori che si rivolgono a noi, garantiamo che il loro prodotto è collocato al meglio sul mercato. Quindi c'è anche questa funzione che anche può riuscire a garantire una maggior stabilità ed economicità, insomma, nella vendita. Diciamo che oggi le imprese agricole hanno, le ripeto, la necessità, questo vale per tutte, da chi produce latte piuttosto a chi produce vino, frutta, ortaggi, eccetera, di collocare le loro produzioni sul mercato. È sempre più difficile farlo direttamente ed è chiaro che le imprese si stanno strutturando o per la vendita diretta, quindi l'accorciamento della filiera, trasformazione in azienda, per esempio nel caso dell'uva vino o di altre produzioni, chi poi trasforma i cereali in carne attraverso gli allevamenti, oppure di conferire queste loro produzioni a chi riesca a fare una grossa massa e poi metterla sul mercato a prezzi ragionevoli per le imprese, perché voglio dire, fare impresa, avere delle produzioni che non ti garantiscono il reddito, siamo punto a capo, come si diceva una volta. Certo, e il vostro ruolo è anche quello di formazione di degli agricoltori? Sì, abbiamo anche nella nostra attività un programma di assistenza tecnica molto avanzato. Noi abbiamo dei tecnici specialisti nel settore dell'allevamento, quindi della mangimistica. Abbiamo un nostro mangimificio molto importante in quel di Mantova, dove produciamo anche la linea dei concimi non OGM, quindi OGM free. Oggi per esempio siamo in condizione di fornire tutto il lavoro della nostra produzione in sacco sarà a breve, a giorni, sarà solo ed esclusivamente OGM free, quindi ci stiamo muovendo anche da questo punto di vista, come dicevo prima, sia per il benessere animale che poi conseguentemente per quello di chi lo consuma. Esatto, poi alla fine è il bene del destinatario finale di queste produzioni, e quindi ci muoviamo, ripeto, anche da questo punto di vista con progetti innovativi, con assistenza tecnica nelle imprese. Abbiamo i tecnici che seguono la frutticoltura piuttosto che la viticoltura e via, insomma. Grazie. Grazie a voi. Diamo anche il sito internet nel quale si possono avere alcune informazioni aggiuntive sui consorzi agrari, quindi www.agrinordest.it. Siamo stati un po' lunghi con la trasmissione, abbiamo tempo solo per una breve notizia. Si svolge sabato 6 giugno la prima rassegna della pecora di Ramon per la valorizzazione e la tutela della pecora di razza Ramon. La manifestazione si svolge nel campo sportivo vecchio in via Cismon e prevede al mattino l'illustrazione delle caratteristiche della razza a cura del professor Emilio Pastore e la valutazione delle pecore in tre diverse categorie con la proclamazione delle vincitrici. Nel pomeriggio si tiene un convegno storico sul mondo della pecora, si tengono anche dimostrazioni di tosatura e di lavorazione della lana. Con questo è tutto, con il quadrifoglio vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.